baciata da un raggio lunare. Trema in cielo la stella ed il cuore sentiamo tremare. Questa è l'ora che tutti i rimpianti rivivono in te. E guardiamo con gli occhi sognanti lontano perché. Tutti abbiamo una casa, tutti abbiamo una sposa, la speranza, l'attesa. Mentre un faro s'accende sul mare, noi sogniamo laggiù un focolar, e una pallida mamma che accende la fiamma per farci scala d'oro. Lontano, tutti abbiamo una casa, tutti abbiamo una sposa, come è triste. Alle sponde vicine e lontane con dolce languore giunge l'eco di tante campane che parlano il cuore. Quella voce che sa di preghiera ci invita a pregare, sembra dire a chi nulla più spera ritorna a sperare. Lontano, tutti abbiamo una casa, tutti abbiamo una sposa, la speranza e l'attesa. Ogni stella che brilla lassù è un pensiero, un rimpianto di più. Ogni sguardo più ancora ricerca ed implora la terra laggiù. Lontano, tutti abbiamo una casa, tutti abbiamo una sposa, come triste.